Siamo in collegamento con un compagno italiano che si trova adesso in Palestina. In realtà al momento non si trova a Gaza come prima per via dello stato di allerta, diciamo, per cui sono stati spostati tutti i cittadini internazionali, si trova a Betlemme. Però comunque si trova in Palestina per un aggiornamento su quello che è successo in questi 2 giorni e che sta continuando a succedere in queste ore tra Israele e Palestina, in particolare nella striscia di Gaza. Intanto ti saluto, ciao. Ciao a tutti. Allora, l'ultima escalation di questi 2 giorni alla soprastriscia di Gaza con 7 palestinesi uccisi e 40 feriti e 8 edifici sono stati distrutti. Ha visto un totale di 480 razzi lanciati dalle forze della resistenza palestinese e 170 attacchi aerei da parte israeliana. Ora si era tornati sull'accordo del cessate il fuoco del 2014, che includeva anche le proteste sul confine, che dovevano essere contenute senza bruciare ruote delle auto o palloni incendiari o aquiloni, e tenere lontani i manifestanti di almeno 300 metri dalla recinzione, dal confine. Allo stesso tempo gli israeliani cominceranno ad abbassare il livello di assedio a Gaza. Inizieranno ad allentare la stretta per i pescatori, ad esempio, permettendo di tornare nel mare fino a sesto miglio. Lasceranno al Qatar pagare Hamas attraverso Israele per facilitare la vita a Gaza e migliorare la situazione economica nella striscia, come era appunto l'accordo reto 5-6 giorni fa. Infatti facciamo un attimo un punto anche nel senso su quello che è successo negli ultimi giorni, perché subito prima che poi Israele in questa mossa militare di domenica sera, che poi ha dato inizio appunto agli scontri, uccidesse 7 palestinesi, era stato stretto un accordo con anche la mediazione egiziana. Esatto, un accordo con la mediazione egiziana per un trasferimento di 15 milioni di dollari da parte del Qatar, che sarebbero serviranno a migliorare le condizioni della popolazione della striscia. Oggi Lieberman, il ministro della difesa israeliana, ha assegnato le dimissioni e ha deciso di lasciare il governo israeliano a causa appunto di quest'ultima escalation con il conflitto con la striscia a Gaza, sostenendo che il governo israeliano si è sottomesso a Gaza e che qui il trasferimento di questi 15 milioni di dollari è vergognoso e serve solo a un acquisto per il silenzio. E rispondere al lancio di 500 missili non è stato sufficiente ed è stata una risposta debole. Infatti, ieri sera, quando c'era stato il cessate il fuoco per le strade a sud, c'erano in Israele, nei paesi al confine con Gaza, c'erano manifestazioni di cittadini israeliani per le strade che manifestavano contrariati al cessate il fuoco. Ha sostenuto che non riesce a vedere negli occhi della gente del sud e nelle famiglie dei soldati dispersi, si sente un ministro impotente, un ministro della difesa impotente, che lui, queste nelle ultime dichiarazioni che aveva fatto, non aveva mai sostenuto alcun accordo con nessuna organizzazione terroristica, in questo caso Hamas, e che non aveva mai divulgato i dettagli delle riunioni del cabinet del Parlamento. Consiglia ai funzionari, dice, di presentare i ministri su un rilevatore di bugie, forte macchina della verità, perché lui è sicuro dei principi che vuole per Israele. Vuole andare alle elezioni e si prepara alle elezioni, a nuove elezioni, alla campagna elettorale, come se già non avesse un governo di estrema destra, proprio oltre Netanyahu. Poco fa la tregua comunque è stata violata perché a nord di Gaza, a Betlaya, un pescatore è rimasto ucciso dal fuoco di un soldato israeliano. Quindi diciamo anche questo, che queste tregue molto spesso non vengono rispettate e sono accordi fragili. Insomma, abbiamo parlato un pochino, parlando anche di Lieberman, delle tensioni che ci sono dal lato di Israele per via della tregua raggiunta. Ti chiederei se invece qual è, diciamo, l'umore dal lato palestinese. E ieri sera, per esempio, quando era stata raggiunta la tregua che era stata proposta da Hamas, dal lato palestinese, per le strade raggiunta la tregua, ovviamente c'era un clima di festa, perché ovviamente mentre nella striscia la popolazione non vuole di sicuro la guerra, questa è una cosa evidente. Girano foto in internet di la gente finalmente usciva di casa, quando ci sono i bombardamenti, nessuno può muoversi. Vabbè, adesso c'è stato tutto questo episodio del pescatore ucciso alle 3 e adesso vediamo cosa può succedere, perché ovviamente l'escalation riparte, possono ripartire dei raggi da parte della striscia e di conseguenza dei bombardamenti. Sì, infatti anche domenica sera era andata un po' così, domenica sera e poi lunedì mattina, nel senso che appunto prima c'era stata questa azione militare da parte delle truppe israeliane e poi dopo c'è stata la risposta. Sì, esatto, da quella di domenica era ovviamente una provocazione più grande, perché non si trattava di un semplice omicidio, non che magari le vite siano diverse, però è stata proprio un'operazione militare ragionata, volta a recuperare dei vertici di Hamas e soprattutto che entravano dentro la striscia in un momento di non solo di tregua, ma a pochi giorni da un accordo. Perfetto, io ti ringrazio e ti saluto. Ti chiedo se poi hai altri aggiornamenti, ovviamente, di mandarceli, insomma. D'accordo, grazie a voi, buona giornata.